Elettra, vuoi tu fare a cavaliere? Elettra Lamborghini, sulla strada di casa, non mi sembra davvero. Stiamo a Catalasia, non mi sembra davvero. Stiamo a Catalasia, non c'è niente da dire. Se vieni tu da me, o vengo io da te. È solo un gioco che dura troppo poco, il tempo di una foto, che siamo con il fuoco, ballando toro loco. Chissà se dopo tu vieni qui da me, vedrà che il cielo non ci trova, facciamo tardi questa sera, siamo soltanto noi due, perché ogni notte inizio con te e non riesco a nasconderti che quando ci penso poi mi manca l'aria. E non riesco a nasconderti che prendi mi per mano, ma la cosa che leva se mette mano, ma la cosa che leva se mette mano, ma la cosa medica da mette mano, ma la cosa sulla bocca sento gusto caramello, e verrà come se canna bebe, bella che il cielo non ci trova, facciamo tardi questa sera, siamo soltanto noi due, perché ogni notte inizia con te e non riesco a nasconderti che quando ci penso poi mi manca l'aria e caramello non è cioccolata, perché ogni notte inizia con te e non riesco a nasconderti che how you like that? È solo un gioco che dura troppo poco, il tempo di una foto, scherziamo con il fuoco, ballando toro loco. Senza se dopo tu vieni qui da me, vedrai che il cielo non ci trova, facciamo tardi questa sera, siamo soltanto